heard your master sing, and I was sick in bed. I suppose that he told you everything that I keep locked away in my head. Your master took you traveling. Well, at least that's what you said. And now do you come back to bring your prisoner wine and bread? You met him at some temple where they'd take your clothes at the door. He was just an umberless man in a chair, just come back from the war. And you wrap up his tired face in your hair, and he hands you the apple core. Then he touches your lips, now so suddenly bare of all the kisses we put on some time before. And he gave you a German shepherd to walk with a collar of leather and nails. And he never once made you explain or talk about all of the little details, such as who had a worm and who had a rock and who had you through the mails. Now your love is a secret all over the block, and it never stops, not even when your master fails. And he took you up in his aeroplane, which he flew without any hands. And you cruised above the ribbons of rain that drove the crowd from the stands. Then he killed the lights in a lonely lane, and an ape with angel glands erased the final wisps of pain with the music of rubber band. And now I hear your master sing, you kneel for him to come. His body is a gold string that your body is hanging from. His body is a golden string, my body has grown numb. Oh, now you hear your master sing, your shirt is all undone. And will you kneel beside this bed that we polished so long ago, before your master chose instead to make my bed of snow? Your eyes are wild and your knuckles are red, and you're speaking far too low. No, I can't make out what your master said before he made you go. And I think you're playing far too rough for a lady who's been to the moon. I've lain by this window long enough, you get used to an empty room. And your love is some dust in an old man's cuff who is tapping his foot to a tune. And your thighs are ruined, you want too much. Let's say you came back sometime too soon. I loved your master perfectly. I taught him all that he knew. He was starving in some deep mystery, like a man who is sure what is true. And I sent you to him with my guarantee I could teach him something new. And I taught him how you would long for me, no matter what he said, no matter what you do. believe that you heard your master sing while I was sick in bed. I'm sure that he told you everything I must keep locked away in my head. Your master took you traveling, well at least that's what you said. And now do you come back to bring your prisoner wine and bread? Buonasera, un buongiorno, buon pomeriggio, dipende da quando state ascoltando 451 frammenti sonori in compagnia mia di Max Macchia, anche se poi insomma compagnia anche dei vari faccendieri che girano intorno a 451 frammenti sonori o 451 in generale. E questa sera per insomma inaugurare nuovamente uno spazio che insomma già l'anno scorso vi ha tenuto vi ha tenuto testa, speriamo, in questo senso, nel senso musicale, quindi anche delle possibilità date, come le chiamiamo da queste parti, futuri rumori, delle possibilità date da musicalità che si muovono tra varie forme di sperimentazione sonora, torna appunto Futuri Rumori con Matteo Scaglioli. Dopo comunque faremo una presentazione tra l'altro del suo veramente notevole ultimo EP. Per iniziare le danze, questa sera veramente si tratta proprio di quelle, Dancehall Days, 451 frammenti sonori. Riniziamo da quello che è un personaggio già inserito tra l'altro la scorsa volta, Michael Bunt. Avevo detto che non avremmo chiuso la parentesi poi si fa per dire, visto che sono dei percorsi che andiamo a rintracciare, che seguiamo per molti aspetti, adesso con la scusa delle ristampe proprio di questi ultimi mesi del lavoro di Michael Bunt, abbiamo la possibilità appunto di rintracciare un lavoro che per certi versi era anche un po' rimasto sommerso, un disegnatore strano, quello di Michael Bunt è un suono che va tanto a rintracciare una danzabilità che non era ancora data, oppure aveva i prodromi dentro Kraftwerk, proprio in terra tedesca. Michael Bunt viene proprio da quel paese, e in quel paese c'era soprattutto la musica cosmica che attraversa anche Michael Bunt in maniera piuttosto originale. Sentiremo in questo Dancehall Days due pezzi notevolissimi, uno che ha un approccio decisamente proto-tecno nel suo svolgersi e anche con quello strano mondo lunare che attraversa Michael Bunt, quindi forse non siamo direttamente nel cosmo, ma ci fermiamo un po' prima, e quindi con quel senso anche di fisicità, con la visione anche che c'è possibile dare attraverso appunto l'occhio nudo anche appunto della luna, quindi la metafora o la similitudine, per meglio dire, la fermo qua. Il secondo invece pezzo che è dentro appunto questa Dance All Days di 451 frammenti sonori, da queste parti appunto di Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia, è un pezzo che invece va su un terreno decisamente cosmico, anche qua però un lirismo struggente che si libera, potremmo dire, veramente, e va oltre appunto i paesaggi anche lunari, appunto, quindi anche fisicità che vengono veramente spostate su un altrove, quindi si crea un disegno astratto, pur avendo appunto questa grande anche vena melodica che attraversa anche in maniera così abbastanza assurda anche certi momenti invece che sembrerebbero appunto più legati alla danza. Questo insomma è un po' il personaggio Michael Bunt, oltre quello che già vi dicevo la scorsa volta, un personaggio che ha sonorizzato un film porno come Schulz, quindi per trovare un parallelismo con un altro suo compatriota appunto cosmicheggiante, chiamiamolo così, o Kraut, ecco, sperando insomma che nessuno s'arrabbi rispetto a quella definizione, insomma, Kraut Rock, che fu presa anche ironicamente appunto da Faust per autoironizzare, oppure per fare una sorta di detournement appunto su le sperimentazioni che stavano avvenendo, e quindi su anche, come dire, etichette che venivano date, così ha invece un disegno veramente larghissimo, e con appunto anche momenti di danzabilità, ma una danzabilità che è extraterrestre, appunto, come accennavo in questo intro di 451. Michael Bunt, quindi, dal disco eccezionale come Just Landed Cosmic Kid, e qua insomma potete come dire andare a danzare fuori, appunto andando in paesaggi lunari, e poi dopo tuffarvi invece direttamente in un cosmo ampissimo che è quello di Michael Bunt. Beh, lavoro veramente eccezionale quello di Michael Bunt, soprattutto per la possibilità data da, proprio dalla sua sperimentazione e dalle sue produzioni, quindi anche proprio il lavoro finito, no, di Bunt, perché lavoro che concettualizza un'idea di dance assolutamente mutante e che da lì a poco tra l'altro si svilupperà proprio a New York, tra l'altro prendendo anche riferimenti appunto dalla Germania e quindi anche insomma chiusura questa sera di 451, oltre che una dedica sottaciuta, malcelata, anzi potremmo dire, a David Mancuso, che anche lui è venuto a mancare al suo storico loft. Beh, proprio il lavoro così eccezionale nel caratterizzare appunto quello che è una danzabilità che verrà da lì a poco creata appunto nei primi club, appunto il loft di New York di David Mancuso, ma poi le varie situazioni create da Nicky Siano, Larry Levan, insomma i grandi nomi della prima DJ Culture, insomma. E con Michael Bunt si va dentro sia quelle appunto quelle proto-techno, ma anche dentro, abbiamo sentito poi nel secondo pezzo, e se il primo The Brain Oscar Panizza, addirittura c'aveva anche una parte che appartiene a Michael Bunt, che è quella un po' della del gigionare, un po' anche dell'essere circense, no? Un po' pagliaccio, anche se vogliamo, in questo senso, ma ovviamente che è un circo che ha veramente grande creatività e anche grande estro, quindi c'è anche un momento insomma di applausi, tra l'altro anche con un mezzo bravo italiano, chissà perché insomma Bunt voleva il bravo italiano. E poi dopo un pezzo invece come eccezionale come La Chasse o Microbe, che invece tramuta il verbo cosmicheggiante in qualcosa di lirico, che però è talmente dilatato e talmente mentale che poi darà anche spunto per quello che sarà l'altra faccia della faccenda techno, ovvero l'ambient house, tra virgolette l'ambient techno, anche se lì è un po' troppo ossimorica la faccenda, però ecco, con ambient house e quindi Orb, Mixmaster Morris eccetera, insomma si va a KLF, si va dentro appunto quel riferimento germanico che è dentro un pezzo come appunto La Chasse o Microbe, c'è tutto, c'è già. E quindi come dire, un'informazione che nasce appunto da questi lavori tra artigianato, concettualismo anche naif a volte, follia circense appunto che attraversa i vari lavori insomma di Michael Bunt, finalmente tra l'altro ristampati. E se dovessimo insomma prendere una dance che non è neanche più prodroma come appunto quella di Michael Bunt, e non è neanche alternative, diventa proprio anche una forma antagonista, una dance quasi pericolosa che per un periodo attraversarono anche i Clock di Via e che per certi versi si ritrova anche nell'ultimo scorcio di Clock di Via, che forse stanno preparando un disco intero dopo un po' di mix, è una strategia che hanno avuto anche nel secondo ritorno dopo il periodo Industrial Wave, poi tornarono alla fine degli anni 80 con The Act, The Iker, due mix eccezionali, meravigliosi, che trasformavano l'electronic body music e anche proprio di fatto facevano nascere una sorta di techno parallela d'oro da gran costruttori appunto del suono elettronico. Poi vari dischi molto, molto affascinanti e belli soprattutto, e la scomparsa nuovamente di Newton, un personaggio schivo, misterioso appunto anche nelle sue fughe, e il ritorno un po' sottaciuto di questi ultimi paio d'anni con dei mix, faccende multimediali che hanno sempre riguardato poi tra l'altro Clock di Via, come forse ancora di più anti-group, il progetto ancora più sperimentale di Eddie Newton. E beh, qua la faccenda appunto di Neoteric ha queste fattenze cosmiche giganti, ha questa sorta di battuta, ma una dead beat potremmo dire, e appunto questo insinuante che attraversa le musiche di Clock di Via da sempre, e che tuttora riesce a portare appunto questo afflato così appunto particolare, così diverso, così alternativo, così antagonista, anche proprio perché appunto diventa qualcosa di quasi pericoloso, talmente insinuante che appunto alla fine come dire, diventa poi di fatto una sorta di lavaggio del cervello, nel senso come tante volte Eddie Newton è andato sulla paranoia del controllo, eccetera eccetera, sembra quasi rivoltare la cosa e quindi tentare un'operazione opposta, una tattica poi tra l'altro creata da lui e da vari industrial più diciamo tecnologici, più spinti verso appunto il The Future, che è anche la storica formazione appunto di Newton e poi di quelli che diventeranno i due Human League. Va bene, andiamo a prenderci appunto Neoteric da Clock di Via per questa appunto Dance All Days. Thank you. lavoro su serie notevole, questo di Clock di Via, che appunto ritornano con Neoteric, ma ritornano sotto traccia, forse anche con un disegno appunto di questo tipo, Dancehall Days, della catastrofe, o meglio della paranoia, però appunto deturnata e fatta appunto rigirare contro chi la genera, questa paranoia, quindi il potere e tutto quello che è l'apparato del potere, da sempre insomma analizzato da Croc di Via in chiave decisamente distopica, ecco. Ma se comunque la faccenda di Dancehall Days distopica, oppure circense, o appunto con momenti anche di prodomi e anche di futuro, no? Senz'altro con Futuri Rumori, appunto, questa sera con Matteo Scaglioli andiamo a trovare una sorta di dance dell'altrove, una dance che va a sperimentare con un suono decisamente liquido, un suono che poi tra l'altro ha questa sorta di vitalità proprio all'interno, una costruzione che probabilmente è anche dall'urgenza data da un certo modo di intendere la musica che ha sempre connotato Scaglioli, si sente e viene fuori, e tra l'altro dentro anche proprio la struttura del pezzo di questo bel disco appunto di Scaglioli, Laughing Monk, è uscito da pochissimo tra l'altro da parte dei compagni di sperimentazione Timeless Record. C'è questo divenire, questa vita quasi che prende forma attraverso appunto la musica, un suono che appunto si evolve e che ha una grande vitalità interna, che a livello di struttura e di suono anche riesce a dare veramente un grosso impatto, veramente una sorta di sollevazione in tutti i sensi, anche una chiave piuttosto fisica, ma anche mentale, nel senso appunto c'è questa anche ricerca di qualcosa che appunto è liquido, o se vogliamo è tra cielo e mare, quindi una sorta di astrattezza che però appunto fa perdere un po' le cognizioni. In questo senso veramente il lavoro è piuttosto originale, tra l'altro al lavoro del tutto suonato da Scaglioli, ma con quel senso appunto futuribile del suono, del tratto cosmico, forse dell'ambient etnica anche trattata, visto che nasce come anche percussionista piuttosto bravo tecnicamente, anche poi tra l'altro campeggia una bellissima foto con Giorgio Moroder sul suo Facebook, quindi andatelo insomma a cercare. Un abbraccio che direi è quantomeno auspicante appunto anche per quanto riguarda Futuri Rumori, con Bianco Pallido, pezzo veramente eccezionale, nel vero senso della parola, per eccezionalità, originalità e sua appunto divenire del tutto eccezionale. E Matteo Scaglioli appunto dentro Futuri Rumori. Bianco Pallido da parte di Matteo Scaioli nel suo ultimo Lonely Monkey, tratto tra l'altro dall'etichetta Timeless Record. Beh, lo ringraziamo intanto per averci mandato questo materiale, ma soprattutto per aver composto un EP su serie notevole, poi appunto con questo diamante che è questo Bianco Pallido, come scriveva lui, una sorta di outtake di bolla outrechiana lanciata nello spazio. E per concludere appunto la traccia sottaciuta e, come dicevo, anche un po' malcelata di 451 frammenti sonori per questa Dance All Days, è chiaramente una dedica, adesso la chiariamo, esplicitamente a David Mancuso, che con il suo Loft creava appunto il club, un club immaginario prima, concettuale, poi di fatto reso fisico, poi anche volgarizzato se vogliamo per molti aspetti, ma appunto il Loft come immaginario rimane. Poi vabbè, c'è lo studio 54 e tutte le varie faccende, ma riguardano più, come dire, storia della moda e del costume. Qua invece si sta trattando con uno che ha disegnato, insomma, l'idea di club, appunto, e l'idea appunto di danzabilità anche come forma sociale molto diversa, e che comunque appunto aveva una grande potenzialità proprio sul nascere, che poi in alcuni momenti è riuscita anche a riprendersi. Forse questo non è proprio il momento migliore per la dance, per appunto un mondo alternativo visto dalla dance e creato dalla dance, però insomma, di certo ecco, sono sicuro certo che riprendendo appunto anche le attitudini di grandi maestri come appunto David Mancuso, beh, si possa anche ritrovare appunto la strada per un'altra dance, un altro Dance All Days. Un saluto da Max Macchia, al prossimo mercoledì, e fate i bravi, va bene? Ciao.